notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulle pensioni è in corso il Consiglio dei Ministri per un primo vaglio del provvedimento, posizione all'attacco sulla restituzione parziale. Berlusconi dice è inaccettabile. Quote di profughi per i paesi europei, dopo la Francia frena anche l'Ungheria, mentre si riunisce oggi il Consiglio degli Esteri per fare il punto sul piano. Domani sciopero dei pediatri che denunciano con il nuovo contratto i bambini non potranno essere più seguiti da una sola persona. Questa sera incontro al Ministero. Con la presa di Ramadi, con 500 morti e migliaia di sfollati, il capo dell'ISIS avrebbe mandato un messaggio. Adesso tocca a Baghdad e Kerbala. Sport, giornata di pausa per il Giro d'Italia, mentre per il calcio arriva la decisione sulla data del derby di Roma. Si giocherà lunedì alle 18. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, oppure la nostra pagina sul sito www.radio24.it durante la diretta, il numero di sms è il 349-238-6666. In apertura, dunque, parliamo del Consiglio dei Ministri che è in corso di svolgimento, all'esame c'è anche il provvedimento sulle pensioni, quantomeno per un vaglio preliminare. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, un Consiglio dei Ministri chiamato a dare una soluzione al buco delle pensioni creato dalla sentenza della Consulta, soluzione ampiamente anticipata ieri però dal Premier Renzi. Si partirà il 1 agosto quando 4 milioni di pensionati riceveranno 500 euro, un una tantum che andrà in tasca a quanti ricevono una pensione sotto i 3.000 euro lordi, non un rimborso totale, ammette lo stesso Presidente del Consiglio, ma una risposta all'emergenza aperta proprio dalla decisione della Corte Costituzionale. Le risorse arriveranno dal cosiddetto tesoretto. Circa 2 miliardi. Per coprire l'intero ammontare del rimborso però si dovrà attendere, ma il Presidente del Consiglio garantisce nessun pensionato perderà un centesimo. Se ne saprà comunque di più al termine della riunione dell'esecutivo e soprattutto domani quando il Ministro dell'Economia Padoan illustrerà il piano del Governo in Parlamento. Numerose restano però le polemiche. Bene che si cominci ad affrontare il problema delle pensioni medio-basse, ma Renzi non se la può cavare solo con un bonus una tantum, commenta la CGIL. Meglio di niente, ma non basta. Aggiungono CISL e UIL, fortemente critiche le opposizioni. Di indegna mancetta di agosto parla dalla Lega Salvini, una soluzione inaccettabile la definisce Berlusconi. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Le risorse per applicare la sentenza sul blocco delle pensioni, oltre tre volte il minimo previsto dal decreto Salva Italia, vanno trovate all'interno del sistema pensionistico stesso. Ne è convinto l'ex ministro del lavoro ed ex commissario dell'INPS, Tiziano Treu, lo ha intervistato Anna Marina. Siccome bisogna dare qualcosa di rivalutazione alle pensioni più basse e il governo ha cominciato a dare delle indicazioni, è giusto prelevare il più possibile da quelli che dentro nel sistema pensionistico hanno avuto di più. I fondi speciali che ci sono ancora, elettrici, poste, ferrovie, Banca d'Italia. E poi tutti quelli che pensioni di anzianità, ma soprattutto quelli che hanno avuto il vecchio sistema retributivo che era più generoso, tutti quelli hanno preso più di quello che hanno dato. Quindi togliere qualcosa alle pensioni più ricche per sostenere quelle che povere più sarebbe più costituzionale. Che hanno anche preso di più di quello che hanno dato, cioè di quello che hanno contribuito. Dopodiché quanto si possa prendere da questi è tutto da vedere, perché se dipende da dove si mette l'asticella. Se le pensioni privilegiate da cui prendere sono poche, è chiaro che si prenderà poco, però io anche se si prendesse non tantissimo mi sembra un principio di solidarietà giusto. Soluzione trovata dal governo, che cosa ne pensa? Questo è un primo passo e poi si vedrà, perché il governo ha detto che farà un'altra valutazione tanto rimborso, e quello che dico io, che dice anche il Presidente Boeri, è da dove prendiamo i soldi. Li prendiamo una parte dal tesoretto, però dovremmo prenderne una parte anche dai redditi, dalle pensioni alte. Così Tiziano Treu, e su questo tema, sul tema delle pensioni, torneremo più avanti. Ritornerà ad essere ospite di Radio 24 Giuseppe Cardinale, il pensionato ed ex dirigente della Standa che ha promosso il ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale e che ha ottenuto questo risultato e questa sentenza. Intanto torna oggi in Parlamento il DDL Scuola, mentre pende ancora sugli scrutini la minaccia del blocco arrivata dai COBAS. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Seduta subito sospesa qui alla Camera, Simone, sul provvedimento della scuola, perché la relatrice Maria Coscia del PD ha chiesto al Comitato dei Nove di verificare i pareri della Commissione Bilancio, una sospensione contestata però dal Movimento 5 Stelle che accusa l'aula è deserta. Continua poi a dire no la minoranza Dem, Stefano Fassina rivolge un appello al governo per trovare una riconciliazione con il mondo della scuola, altrimenti dice si fa un danno soprattutto ai ragazzi. Di parere diverso il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che in un'intervista dice i sindacati dicono no in difesa del loro potere, la protesta è politica ed elettorale, la CISL si sta aprendo al dialogo mentre le altre sigle sindacali non sono voluti intervenire nel merito delle questioni. C'è un'emergenza per Giannini educativa, bisogna abolire i precari e quelli che scendono in piazza non vogliono che la scuola si apra ad un perfettibile ma necessario sistema di valutazione che riguarda presidi, insegnanti e studenti. Questa settimana qui a Montecitorio il voto finale sul provvedimento e riguardo al paventato blocco degli scrutini il premier Matteo Renzi dice no, si dice quindi contrario. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, anche su questo tema torneremo, dovremo riuscire a sentire più avanti nel corso della trasmissione la responsabile dei COBAS scuola, proprio per capire perché hanno intenzione di bloccare gli scrutini nonostante questa forma di protesta, lo abbiamo raccontato, sia illegittima, ce l'ha detto anche il garante sugli scioperi. Tra gli annunci di ieri del Presidente del Consiglio, quello che entro un anno sarà completata la sistemazione della Salerno-Reggio Calabria, un annuncio che è arrivato nel giorno nel quale l'Assemblea dell'ANAS dovrebbe dare il via libera al nuovo Consiglio di amministrazione senza Pietro Ciucci. Dopo quasi 9 anni all'ANAS finisce l'era di Pietro Ciucci. Il presidente della società pubblica rimetterà il mandato nel corso dell'assemblea di oggi. Ad annunciarlo era stato lui stesso lo scorso 13 aprile, dopo le polemiche seguite ai crolli di alcuni viadotti e soprattutto dopo le dimissioni degli altri due consiglieri che sedevano con lui nel consiglio di amministrazione. Ufficialmente Ciucci ha però spiegato di aver deciso di lasciare in segno di rispetto per il nuovo ministro delle infrastrutture della Rio e per dare modo al governo di rivedere la governance di ANAS. Sarà l'assemblea ora ad indicare il suo successore. In pole position ci sono Gianni Armani, AD di Terna Rete Italia, Domenico Arcuri, AD di Invitalia e Mario Virano, direttore generale di TELT, la società incaricata di realizzare la TAV. L'assemblea nominerà anche il nuovo consiglio di amministrazione che dovrebbe essere allargato da 3 a 5 membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un paio di dati economici arrivati, uno dall'Istat e uno dall'INPS. L'Istat ci comunica che le esportazioni sono cresciute in marzo del 9,2% rispetto al 2014, trainate dall'area extraeuropea, un più 13,2%. Per quanto riguarda l'INPS invece ha comunicato i dati sulle domande di disoccupazione che in marzo ne sono state presentate 118.786, il 15,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2014. È in corso o sta per iniziare il Consiglio dei Ministri degli Esteri europei, al centro il tema dell'immigrazione, all'indomani della presa di posizione della Francia che ha dichiarato contrarietà alla distribuzione dei profughi tra i vari paesi. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, come dicevi, i ministri degli esteri e della difesa dei 28 sono a Bruxelles per 2 sessioni del Consiglio europeo, prima separate e poi a partire dalle 13.30 circa vedremo congiunte per discutere della strategia europea sull'immigrazione in generale, ma all'interno di questa in particolare sul piano di intervento navale contro i trafficanti di uomini che salpano dalle coste della Libia. È il cosiddetto CMC, che sta per Crisis Management Council. È un piano sul quale, a differenza di quello sulle quote per la ripartizione dei migranti cui facevi riferimento tu, c'è una certa compattezza tra i membri della Unione, un via libera politico quindi assai probabile. E poi, come ha sottolineato però stamattina l'alto rappresentante per la politica estera europea Mogherini, si cercherà la legittimazione internazionale. È chiaro che noi cerchiamo una piena legittimità internazionale, può avvenire con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per questo sono stata a New York 2 volte negli ultimi 10 giorni, non ho trovato maggiori resistenze politiche all'ipotesi di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza anche capitolo 7, è chiaro che però tutto il lavoro adesso sulla stesura della risoluzione stessa è ancora da finalizzare. È anche chiaro che non è l'Unione Europea a sedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, noi stiamo coordinando il lavoro degli Stati membri. Il piano prevede un lavoro di intelligence per individuare i trafficanti, incursioni mirate per l'eliminazione a terra dei barconi o il loro sequestro e confisca se sono già in mare. Se il piano supererà l'esame di oggi, poi passerà all'approvazione definitiva nel vertice dei capi di Stato e di Governo prevista a fine giugno e nel frattempo, ovviamente, come diceva Mogherini, si lavorerà all'autorizzazione, alla risoluzione ONU che lo autorizzerebbe. Grazie Laura Bettini per questi aggiornamenti ulteriori, se ne avremo nel corso della trasmissione, altrimenti in Europa 24 subito dopo il giornale radio delle 14. Ci spostiamo in Iraq adesso all'indomani della presa della città di Ramadi da parte del sedicente Stato Islamico. Dopo Ramadi libereremo Baghdad e Kerbala, ha detto il leader dell'ISIS Abu Bakr al-Baghdadi in un audiomessaggio diffuso in rete, del quale al momento però non è possibile verificare l'autenticità. Ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per fare un punto proprio sulla situazione in Iraq. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Cosa rappresenta la presa di Ramadi e ISIS è veramente così vicino alla conquista della capitale? Ma diciamo che stiamo vivendo ore drammatiche, perché come Mosul un anno fa, se vi ricordate, l'esercito iracheno si è ritirato davanti al califfato anche qui a Ramadi. È una piazzaforte strategica della provincia sunnita di Al-Anbar, è vicina a una base aerea famosa, quella di Abania, e a un grande lago dove sono state deviate l'acqua dell'Eufrate che dà da bere e irrigazione a gran parte di tutta questa provincia sunnita. Il Pentagono americano sostiene che la città non è ancora del tutto caduta, ma comunque per riprenderla dovranno tutti rassegnarsi a far combattere sul terreno ancora una volta quelle milizie sciite detestate dalla popolazione sunnita. È una situazione paradossale, paradossale perché queste milizie sciite sono sostenute dall'Iran e Obama è sempre sotto pressione per non firmare l'accordo nucleare con Teheran, però l'Iran è uno dei paesi che sono andati a aiutare Baghdad proprio contro il califfato. Quindi è un terreno sul quale in realtà, Alberto, da quel che ci stavi dicendo, si giocano molte partite e molto diverse dalla pura avanzata militare dell'ISIS. Ma non c'è dubbio, oltretutto anche per gli americani Ramadi è un nervo sensibile. Ricordiamoci che per difendere questa città, per riprenderla ai tempi di Al-Qaeda, quando proprio Abu Musa al-Zarqawi, il fondatore di Al-Qaeda in Iraq, proclamò che era la capitale del califfato. Questi che vediamo oggi dell'ISIS sono davvero i suoi eredi, in particolare Abu Bakr al-Baghdadi. Ebbene allora, eravamo a metà degli anni 2000, circa nel 2007-2008, fu mandato il più importante generale americano, il generale Petraeus, per liberare questa città. Centinaia di marine sono morti per liberare Ramadi. Ecco perché anche per gli americani quello che sta avvenendo adesso è questa battaglia così importante. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per la sua analisi. Siamo alla cronaca. Una donna di 63 anni è stata investita questa mattina in via Quarto d'Emilia a Palermo, travolta da un'auto mentre attraversava la strada e ora si trova in ospedale. Proprio ieri nel capoluogo siciliano una trentenne ha perso la vita investita da un pirata della strada che era sotto l'effetto di stupefacenti. Così anche l'uomo che ha tamponato all'Aquila un 14enne alla guida del suo scooter, morto sabato sera. Entrambi i pirati della strada fuggiti dopo l'incidente e poi fermati dalla polizia erano senza patente valida. Al primo era stata ritirata, al secondo era scaduta da 2 anni. E sempre per la cronaca, questa mattina l'interrogatorio per l'infermiere napoletano che ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 6. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giulio Mudolo. L'avvocato Carlo Bianco Portofalo ha descritto come una persona estremamente pentita, disperata e che sta prendendo coscienza di ciò che è accaduto, sebbene non ricordi ancora con chiarezza. È stato un pianto continuo, ha detto, e sta anche peggio rispetto a come lo ha trovato sabato, ha detto appunto il legale, che non ha peraltro presentato ancora la richiesta di perizia psichiatrica per l'infermiere che ha ucciso venerdì pomeriggio il fratello e la cognata, si è poi trasformato in un cecchino ammazzando poi altre 2 persone in strada e ferendone 6, è accusato di strage. L'uomo agonista della specialità di tiro dinamico e tiro a volo, in casa aveva un vero arsenale, tutte armi legalmente detenute tranne un Kalashnikov che prima o poi probabilmente dovrà anche spiegare come si è procurato dopo aver sfogato la sua pura Spuria omicidia ha detto solo poche parole all'avvocato sabato mattina e niente invece al magistrato, così come non ha detto nulla al GIP questa mattina. E intanto una novità rispetto alle vittime e ai funerali: domani si dovrebbe tenere il funerale del capitano dei vigili urbani Francesco Brunner. È tutto lì allo studio. Grazie Laura Vigiano per questi aggiornamenti. Prima di andare alla pausa parliamo di sport. Abbiamo finalmente, Carlo Genta, la data del derby tra Lazio e Roma, non senza diversa, qualche polemica. Diversa. Sì, diversa da quanto era in calendario, perché sappiamo che ci si è messa di mezzo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, complice la finale di Champions League che la Juventus dovrà giocare, dunque è stato chiesto questo posticipo che è stato accordato. Il derby di Roma si giocherà lunedì alle 18 o alle 18.30, soluzione che non piace per nulla alla Roma, anche perché la Juventus giocherà 48 ore prima una partita importantissima per gli equilibri relativi a quel terzo posto a Torino con il Napoli, giocherà a Torino con la Juventus, e dunque c'è polemica su questa collocazione del derby. Sappiamo che non può essere serale il derby di Roma per motivi di ordine pubblico, e dunque c'è questa soluzione che alla Lazio piace, alla Roma molto meno, ma tant'è. E così giocheranno, anche di questo si parlerà in tutti i convocati a partire dalle 14. Intanto ci sono anche, come tema di discussione, le dichiarazioni di Silvio Berlusconi su Inzaghi. Abbiamo avuto visioni diverse in tante occasioni, ma questo è un discorso che faremo al momento opportuno. Storia finita, e momento opportuno che ritarda però sempre di più. Grazie Carlo Genta. Nel Ciao, frattempo Simone. Noi tra un attimo torniamo a parlare di scuola sentendo i COBAS, parleremo dello sciopero dei pediatri, torneremo a parlare di pensioni, ma il traffico prima. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Pensioni, è in corso il Consiglio dei Ministri per un primo vaglio del provvedimento annunciato da Renzi, opposizione all'attacco sulla restituzione parziale per Berlusconi è inaccettabile. Quote di profughi per i paesi europei, dopo la Francia frena anche l'Ungheria, parla il ministro degli esteri Gentiloni, passi indietro sarebbe una figuraccia. Domani è lo sciopero dei pediatri che denunciano con il nuovo contratto i bambini non potranno essere più seguiti da una sola persona. Questa sera incontro al Ministero. Dopo la presa dei Ramadi con 500 morti e migliaia di sfollati, il capo dell'ISIS avrebbe mandato un nuovo messaggio. Adesso tocca a Baghdad e Kerbala. Saluto Giuseppe Cardinale, che è pensionato, ex dirigente della Standa, lo avrete letto da qualche parte sui giornali, lo avete sentito sicuramente ospite di Alessandro Milan la settimana scorsa in 24 Mattino, è la persona dalla quale è partito il ricorso che poi ha portato la sentenza della Corte Costituzionale. Cardinale, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Quest'idea che ha lanciato il Presidente del Consiglio, questo provvedimento che porterà ad una restituzione parziale per i pensionati sotto una certa cifra, sotto i 3.000 euro di una parte del dovuto, per così dire, rispetto all'indicizzazione alle pensioni che è saltata nel 2012 e nel 2013, secondo lei è una buona soluzione? Secondo me no, perché non risolve secondo me il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale. Potrebbe essere una soluzione nel senso che quando un creditore ha difficoltà ti chiede una rateizzazione del dovuto e allora gli accordi una rateizzazione, ma una tantum rispetto a qualcosa che dovrebbe essere per me 2.500 o giù 3.000. Non mi pare una soluzione. Non vorrei che passasse comunque il concetto, l'idea che noi siamo affamatori di popolo e di giovani, perché questo mi darebbe molto fastidio, come qualcuno sta volendo far credere. Ma quindi lei non si sente un po' in colpa, no? Parliamoci chiaro, la mia pensione, io parlo della mia e di tante altre persone, è dovuta a versamenti fatti tutti per interi. Tra l'altro di tasca mia ho pagato 4 anni di riscatto laurea, di tasca mia. Quindi Dobbiamo parlare, quando parliamo di pensioni, mi scusi, lei è in pensione col retributivo o col contributivo? È un parziale, perché io fino al 95 era retributivo e poi è diventato, se ricordo bene, la legge, che era la legge, aspetti, mi aiuta, Amato o Dini, è diventato contributivo per pochi anni, diciamo, ecco, se ricordo bene. E dal 95 sono andato in pensione nel 2001 e quindi pochi anni. Buona parte anche, ma lei anche la parte retributiva, per così dire, la sente come dovuta? Lo ricordo agli ascoltatori, le pensioni retributive, chi è andato in pensione con la pensione retributiva prende una pensione in relazione, mi scusi, lo spiego agli ascoltatori, in relazione a quanto guadagnava e non a quanti contributi ha versato, così lo spieghiamo bene agli ascoltatori. Lei quella parte retributiva la sente dovuta pure quella? Sì, perché allora facciamo un esempio, io dico, facciamo un esempio, se io metto dei soldi in banca, no? Spero soltanto che ho interesse basso, interesse medio, non so cosa ci sia al momento, mi fruttino qualcosa quando li riprenderò, giusto? Ora non sono un tecnico di pensioni e di contributi e cose varie, però un risparmio sulla retribuzione messo in banco da qualche parte deve aumentare di valore. Non so se seguite il mio discorso. Sì. Chiaro, questa è la sua valutazione. Le voglio chiedere questo, cardinale. Lei ha intenzione di controricorrere, per così dire? Su questo concorderemo con la mia associazione e vedremo un po' il da farsi. Aspettiamo, come dire, i dati concreti del decreto, al di là delle dichiarazioni. Però se fosse così, sì. Probabilmente ricorreremo, probabilmente, ripeto, ne parleremo con il legale dell'associazione, poi vediamo, ma ripeto, a breve dovrebbe uscire questa decisione del governo e ne prenderemo atto e vedremo un poco assieme. La ringrazio. Prego, grazie per essere stato con noi. Giuseppe Cardinale, pensionato, ex dirigente della Standa, l'uomo che ha promosso il ricorso che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale. Anna Grazia Stammati fa parte dell'esecutivo nazionale del COBAS Scuola. La saluto e buongiorno. Buongiorno a lei. Ma come fate a pensare di poter fare uno sciopero degli scrutini se è illegittimo, Stammati? Ma veramente noi siamo allibiti che un professionista, il presidente Alesse, possa dire che questo sciopero degli scrutini è illegittimo, citando l'accordo del 99 che invece dice esplicitamente che si possono fare gli scrutini ma non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività sia propedeutica allo svolgimento degli esami di Stato, degli esami delle classi terminali. Quindi il blocco degli scrutini, proprio in base a, che è uno sciopero, poi non è il blocco degli scrutini, è lo sciopero indetto secondo un calendario preciso in tutte le regioni, si può fare benissimo, lo dice la normativa. Non si capisce perché Alesse, infatti c'è un nostro comunicato di stamattina in cui diciamo: ma presidente Alesse, a che gioco sta giocando? Lei non può non sapere che lo sciopero dei COBAS è perfettamente legittimo e lo è proprio in base all'accordo del 99 citato dal presidente. Però a me sembra anche che Alesse, che abbiamo avuto ospite tra l'altro proprio venerdì, sia stato molto chiaro che là può partire la precettazione. Ma quando? Laddove? Nel caso lui ritenesse illegittimo questo sciopero, nel caso lui ritenesse illegittimo. Lui lo può ritenere personalmente, cioè lui lo ritiene illegittimo nel caso. Lui come autorità, Stammati, non ne facciamo una questione personale. Ci mancherebbe altro. Può ritenerlo illegittimo come autorità esclusivamente nel caso in cui ci fossero i termini, ma i termini non ci sono. Noi abbiamo convocato uno sciopero degli scrutini nei primi due giorni dopo il termine delle elezioni per tutte le regioni e questo è quello che noi abbiamo convocato. Dunque il presidente come fa a sostenere una cosa del genere? E perché dovrebbe precettare a priori a priori ci dice io vi precetto perché questo per me non è giusto, proprio come garante, proprio come presidente non dovrebbe fare un'affermazione del genere, perché dovrebbe conoscere la normativa. Ha detto tra l'altro Alessia che stanno valutando anche sul boicottaggio dei test invalsi se ci sia qualche violazione. Ma le violazioni sono semplicemente degli scioperi. Noi abbiamo indetto uno sciopero dell'intera giornata nei giorni 5 e 6 che sono stati da loro invece illegittimamente spostati nei giorni successivi, e cioè al 6 e al 7, perché il 5 c'è stato lo sciopero di tutti, peraltro in quella giornata. Noi abbiamo indetto un regolare sciopero. Chi ha aderito allo sciopero non ha svolto i testi, ma la cosa eclatante sulla quale dovrebbe ragionare non soltanto il presidente Alessio, ma anche il presidente Renzi, è che sono state le famiglie autonomamente a non inviare i figli a scuola. Tant'è vero che non solo non sono stati mandati a scuola dalle famiglie il 6, che era comunque un giorno di sciopero convocato per le scuole, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dai COBAS, ma anche il 7, li hanno mantenuti a casa. E non si può dire che i 12 gli studenti sono stati strumentalizzati, intanto perché gli studenti non sono dei deficienti mediamente, ma hanno delle capacità critiche, per fortuna, di analisi, che li portano evidentemente a giudicare questi indovinelli, come li chiamiamo, non adeguati alla loro preparazione. C'erano infatti delle cose ben precise. Sì. Che dicevano gli studenti. Sì, insomma, al di là del senso dei test invalsi, appunto la mia domanda era specificatamente sul tipo di protesta. Tempo concluso, la ringrazio, grazie ad Anna Grazia Stammati, dell'Esecutivo Nazionale COBAS Scuola. Di un'altra protesta parliamo tra poco, quella dei pediatri che potrebbero fermarsi domani, salvo che lo sciopero non venga scongiurato questa sera, ma lo facciamo tra poco, dopo la pausa e la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Pensioni, è in corso il Consiglio dei Ministri per un primo vaglio del provvedimento per la restituzione parziale. Le opposizioni all'attacco, Berlusconi dice è inaccettabile. Quote di profughi per i paesi europei. Dopo la frenata della Francia parla il ministro Gentiloni che dice rischiamo una figuraccia. Domani sciopero dei pediatri che denunciano con il nuovo contratto i bambini non potranno essere più seguiti da una sola persona. Dopo la presa di Ramadi il capo dell'ISIS avrebbe mandato un messaggio, adesso tocca a Baghdad e Kerbala. Alla borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E prima, come si annunciava, di andare a parlare dello sciopero dei pediatri, torniamo all'estero per parlare di quell'abbraccio tra Abu Mazen e il Papa che ha suscitato le ire di Israele. A ricordare che la scelta del pontificato di Francesco si collochi in un solco tracciato da tempo è stato il segretario di Stato. La firma di un accordo con lo Stato di Palestina, ha detto Parolin, si colloca esattamente nell'ottica di contribuire in maniera concreta alla realizzazione di un disegno che permetterebbe a due popoli di avere un proprio Stato. Incoraggiare l'impegno della pace, questo l'obiettivo di Francesco, ha aggiunto dal canto suo il portavoce, padre Federico Lombardi. Una posizione, quella del Vaticano, rispetto alla Terra Santa ben definita. Due popoli, due stati, ha ricordato lo stesso Francesco durante la visita dello scorso anno. Conciliando il diritto di Israele di esistere e godere di pace e di sicurezza all'interno di confini internazionalmente riconosciuti, con quello del popolo palestinese di avere una patria sovrana ed indipendente. A gettare le basi dell'intesa, il pontificato di Giovanni Paolo II. Era il 2000 quando cominciarono i colloqui e quando il Vaticano sottoscrisse una dichiarazione di intenti con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina per aprire nuove strade ai fedeli cristiani che vivono nei territori. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'analisi di Ugo Tramballi. Sono sempre più numerosi i governi e parlamenti occidentali che hanno deciso di riconoscere lo Stato palestinese. È di solito un gesto più carico di valore etico che politico. Il riconoscimento della Santa Sede, annunciato la settimana scorsa e sancito dall'incontro fraterno tra Papa Francesco e Abu Mazen, il presidente dell'autorità palestinese di Ramallah, ha invece un peso prima politico e poi anche etico. Rende sempre più difficile la posizione di quei governi e parlamenti, come gli italiani, che sulla questione hanno preferito nascondersi in una pavida ambiguità. Il Vaticano non può essere accusato di di tendenze antisemite o anti-israeliane. Da tre papati a questa parte, la Santa Sede ha un rapporto intenso e proficuo con lo Stato ebraico e, come tutti, è convinto che solo la trattativa di pace sia la strada per uno Stato palestinese. Ma anche la diplomazia vaticana ha voluto inviare un segnale al nuovo esecutivo israeliano nazionale religioso, nel cui programma di governo non viene previsto alcun negoziato con i palestinesi. Adesso vogliamo parlare, come si diceva, dello sciopero dei pediatri proclamato per domani. Questa sera ci sarà un incontro al Ministero proprio per cercare di sciogliere questo nodo. Come vi dicevamo nei titoli, dicono con il nuovo contratto i bambini non potranno essere più seguiti da una sola persona. Sarà tra l'altro stasera l'incontro ed è ospite nostro il sottosegretario alla Sanità Vito De Filippo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei che ci ascolta. Sì. Cosa dicono? Cosa... Aspetti un attimo, allora... Io vorrei farle rispondere a quello che dicono i pediatri. I pediatri dicono, in realtà, con questo nuovo, con questa nuova forma di contratto di lavoro, succederà che le famiglie non avranno più a disposizione lo stesso pediatra, ma i pediatri ruoteranno senza avere di fatto la possibilità di seguire il singolo bambino. È effettivamente così? Guardi, tutta l'operazione che si sta dimostrando abbastanza complicato, il governo, come noto, sta facendo un lavoro di facilitatore, perché il rapporto anche con la regione si è manifestato abbastanza difficile per la nuova convenzione, è tutto basato sull'associazione di medici, di pediatri, per costruire reti di servizio sul territorio dove pediatri, medici di medicina generale, specialisti possano offrire alla quantità enorme di bisogni, che sono quelli dei bambini, che sono quelli degli anziani, che hanno problemi soprattutto sul fronte delle cronicità, a offrire servizi più avanzati per 24 ore al giorno, per 7 giorni su 7. Allora, in questo senso mi sembra che anche l'associazione dei pediatri possa superare sostanzialmente questo rischio che viene indicato, che noi conosciamo, ma io credo che ci siano metodi operativi affinché questa difficoltà che viene segnalata possa essere superata. Cioè, ci spieghi meglio, l'idea è che si vengano a creare delle strutture che diventano, non dico sostitutive del pronto soccorso, ma quasi, cioè strutture che sono aperte 24 ore, alle quali i cittadini si possono rivolgere e nelle quali però trovano un medico di turno che non è necessariamente il loro. Sono le cosiddette strutture che si devono organizzare, si chiamano UCCP, che sono unità complesse di cure primarie, e le AFT, che sono associazioni funzionali territoriali, dove sostanzialmente sarà il fronte di risposte che ha bisogni, che ci sono soprattutto sulle cure primarie cosiddette, lì troveranno non solo pronti soccorso, perché i pronti soccorso è evidente che devono soccorrere su emergenze e su livelli di gravità sicuramente più alti. In questo caso sono le cure primarie, che sono la cronicità, che sono la pediatria. Allora, in questo lavoro, che non è una scoperta di oggi, i medici e i pediatri sanno bene che dalla legge Balduzzi al patto per la salute sono stati definiti questi nuovi profili organizzativi, ai quali anche loro hanno concorso in termini anche di operatività, anche in termini di azione. Quindi io penso che sia un percorso molto interessante, sicuramente ci sono punti critici. Noi questa sera, ancora una volta, come governo, il Ministero della Salute e la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con la sottosegretario De Vincenti proveremo ad ascoltare le loro ragioni, perché c'è bisogno di fare anche questo passaggio e provare da domani in poi a lavorare nella direzione giusta, che è quella dei pazienti e dei bambini. Però mi spieghi una cosa, da un punto di vista pratico, De Filippo, quello che denunciano i pediatri è possibile che avvenga oppure no? Ossia il fatto che un bambino, per esempio, non venga più seguito dalla stessa persona, ma venga seguito da una struttura e quindi da pediatri diversi. Beh, nello scambio di informazioni e anche nello scambio organizzativo e operativo, se ci sono associazioni di pediatri, può anche essere, io non so se è un rischio, penso che tra professionalità che hanno deciso di collaborare può essere addirittura, come dire, un vantaggio, nel senso che c'è uno scambio anche di opinioni, anche di buone pratiche. Io, se questo è un rischio, vedremo nella organizzazione del nuovo contratto evitarlo, se loro lo considerano un rischio. Ovviamente la loro esperienza, la loro posizione per noi è molto importante, loro ascolteremo molto attentamente quello che ci diranno. Pensate di poter scongiurare lo sciopero di domani? Beh, guardi, è stato annunciato da tanto tempo, siamo soltanto a 24 ore. Io voglio dire, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio ci stanno mettendo un impegno serio, leale anche nei confronti di tantissimi professionisti, e sappiamo che ci sono anche delle ragioni che hanno portato a questa scelta dello sciopero. Scongiurarlo non è una cosa facilissima, ma noi ci vogliamo provare seriamente. Questo è il senso dell'incontro di questa sera. La ringrazio, grazie al sottosegretario Vito De Filippo. Buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. E noi andiamo al traffico.